Il nostro giro all'interno delle Caritas diocesane prosegue oggi con Padova, dove andiamo a conoscere un interessante servizio a favore delle persone, in particolare delle donne. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Il nostro percorso all'interno del mondo delle Caritas ci riporta a Padova per conoscere due realtà, due iniziative importanti. Parliamo in particolare di donne oggi e lo facciamo con due donne. La prima che incontriamo è Sara Ferrari, ben trovata. Buongiorno. Grazie per la disponibilità. Allora, Sara si occupa dell'area tratta della Caritas di Padova e dell'ambulatorio Caritas Cuam. Facciamo un passo alla volta. L'area tratta è la tratta delle donne, evidentemente. Sì, noi ci occupiamo prevalentemente di donne che sono sfruttate a scopo sessuale, ecco. Abbiamo uno sportello, all'interno dello sportello Promozione Donna, uno sportello di segretariato sociale dove incontriamo le ragazze che vengono a raccontare la propria storia e chiedono aiuto. Ecco che è un dramma, insomma, di cui magari non si parla molto, se ne parla solo quando ci sono le retate della polizia, eccetera, però dietro, e voi stesse potete testimoniarlo, insomma, ci sono storie di sofferenza, cioè nessuna di queste sceglie di fare quel tipo di mestiere. No, assolutamente, sono tutte ragazze trafficate che arrivano da situazioni di deprivazione pesante nel paese d'origine e in qualche modo subiscono la promessa di un futuro migliore, si affidano a persone che da prima sembrano persone buone, no? E poi invece si dimostrano dei veri aguzzini e le portano in giro per il mondo sfruttandole in modo veramente bieco. Voi come vi approcciate a loro? Cioè vi approcciate voi a loro o sono loro che chiedono aiuto? Come funziona? No, essendo il nostro uno sportello sono loro che arrivano a noi, a volte segnalate dal comune col quale abbiamo una convenzione per una pronta accoglienza e appunto anche lo sportello di segretariato, a volte inviate dalle forze dell'ordine, altre volte per un passaparola tra le ragazze stesse che magari hanno già usufruito del servizio o a volte anche a accompagnate da clienti. Ecco, un percorso che è iniziato, quanti contatti avete avuto con quante persone finora? Beh, noi lavoriamo in quest'ambito circa dal 2000 e diciamo che lo sfruttamento è molto cambiato. All'inizio vedevamo anche 60-70 persone l'anno, ragazze che accompagnavamo nel percorso di stesura della denuncia per poi portarle in casa d'accoglienza e fare il percorso integrazione ex articolo 18 del testo unico del 98. E alla fine in questi ultimi anni le ragazze invece sono molto diminuite perché è cambiato completamente lo sfruttamento e le ragazze percepiscono meno di essere sfruttate. E un po' dobbiamo dire che anche forse si adattano, ecco, a questa nuova condizione in cui c'è una povertà un po' diffusa, per cui anche questo porta un po' di cibo in casa. È un dramma comunque umano molto, molto ampio e molto profondo. Un altro servizio di cui ti occupi sarà quello dell'ambulatorio con il QAM. Sì. È un ambulatorio completamente gratuito che abbiamo in gestione dal 1998, si chiama Poliambulatorio Caritas Cuam perché fin dall'inizio vedeva la collaborazione della Caritas nella gestione del servizio, del Cuam nel presentare medici volontari che poi erano quelli che curavano, no, le persone che si presentavano all'ambulatorio e il Comune di Padova che in convenzione con noi ci dava e ci dà ancora l'uso degli spazi in via Dupré e una piccola somma per poter far fronte alle spese. Attualmente l'ambulatorio è prevalentemente odontoiatrico, curiamo sia persone che noi definiamo STP, nel senso che hanno tessera sanitaria di straniero temporaneamente presente, però ultimamente curiamo anche tante famiglie italiane, residenti e regolari che però non hanno possibilità di accedere a delle cure private. I volontari, i medici sono tutti volontari. Uh-huh. E si alternano chi una volta alla settimana, chi due volte alla settimana e abbiamo invece un assistente alla poltrona stipendiata dalla Caritas che gestisce il servizio. L'accesso, ecco, l'accesso all'ambulatorio avviene tramite una nuova collaborazione che abbiamo stipulato con l'associazione Mimosa, che fa dei colloqui alle persone che chiedono di poter accedere appunto a questo servizio gratuito, e poi l'invio avviene attraverso loro. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ringraziamo Sara Ferrari e passiamo ad un'altra donna per altri servizi, anzi uno sportello specifico, sportello promozione donna, di cui si occupa Suor Michela, che è un'eremita diocesana della diocesi di Padova. Ben trovata anche Suor Michela. Buongiorno. Grazie anche a lei per la disponibilità, e introduciamo, insomma, spieghiamo che cos'è questo sportello promozione donna. Ecco, allora noi accogliamo donne che vengono in cerca, che vengono in Italia anche dall'est, soprattutto in cerca di lavoro come badanti, e si rivolgono a noi per avere un'accoglienza, per poter dormire almeno per i primi tempi finché non trovano lavoro. Poi si rivolgono a noi delle persone che hanno bisogno economico, pertanto cerchiamo di aiutarle economicamente per quanto almeno ci è possibile. Poi abbiamo anche le vittime di tratta, che già ha parlato Sara, povere ragazze nigeriane purtroppo, che cerchiamo di aiutare anche quando iniziano un cammino, diciamo, che escono da questa storia così brutta, difficile, e cercano di inserirsi un po', in questo caso cerchiamo di aiutarle economicamente. E abbiamo anche dei laboratori, Progetto Miriam, che uno è Sfaira, che con questi laboratori cerchiamo di inserirle perché possano imparare a fare dei lavoretti, imparare la lingua italiana e anche ricevere un piccolo contributo per andare avanti. Ecco, abbiamo un po' vario quello che accolgo tutti i giorni. Ecco, un mondo appunto molto vario. Da quanto tempo se ne occupa Suor Michela? Io sono qui da un anno. Un anno. Che tipo di persone si rivolgono a voi? Può darci un profilo, insomma, o comunque dei profili di persone che arrivano allo sportello promozione donna? Guardi, io credo un po' di tutti i tipi, sia per l'età che hanno, dalle giovani, non minorenni, questo no, o a parte qualcuna. E un po' di tutte le età, di tutte le diciamo che come cultura, a volte sono persone che non hanno mai studiato, che hanno un piccolo titolo di studio, a volte laureate anche, un po' di tutto, diciamo un po' misto. E anche italiane? Qualcuna sì, qualcuna che magari ha problemi familiari, ha problemi di casa, lo sfratto, vive sola, abbandonata da tutti, un po' a volte anche solo per parlare, senza fare nessuna richiesta, ma solo per poter parlare un po', trovare un po' di sostegno psicologico, una parola di conforto. Per quello che vede, è un servizio che poi si alimenta anche con il passaparola, cioè magari ci sono persone che sono state da voi tempo fa e che hanno a loro volta sentito parlare di questo servizio e che arrivano a chiedere aiuto? Sì, sì, ce ne sono parecchie che lo dicono, altre che magari riusciamo, lo capiamo noi, però c'è spesso un passaparola. Da donna a donna, poi, anche se lei appunto è un'eremita, una suora, una consacrata, come ci si pone nei confronti di altre donne? Cioè, è più facile o è più difficile? Guardi, io cerco di rispettare tutti e la loro cultura e la loro religione. Vedo nelle donne che vengono, vedo la persona, una persona da amare, da accogliere, al di là di quello che può essere, di quello che è la persona, perché a volte si presentano nel bisogno, a volte una diventa anche un po' aggressiva. Però io mi rendo conto che c'è solo un grande bisogno, soprattutto di amore, perché forse questa è la povertà più grande. Perciò cerco di accoglierle con quanto amore mi è possibile e poterle dare soprattutto questo, oltre a quello che ci chiedono, quell'esigenza che c'è, perché del posto letto hanno bisogno, del vivere, di un buono pasto c'è bisogno, perciò c'è bisogno anche della parte economica, però soprattutto la parte affettiva, quell'accoglienza da non giudicare, ma bensì da amare. Ecco, c'è poi un percorso anche successivo, magari qualcuno si rivolge per esigenze immediate o contingenti, c'è un percorso anche di accompagnamento successivo, ci sono persone che frequentano questo sportello magari da anni e tornano? Sì, a volte tornano anche dopo un anno, dopo due anni, magari nel frattempo hanno cambiato città oppure hanno fatto qualcos'altro, oppure hanno trovato un lavoro perciò non avevano più bisogno di tornare qui, e, amicizie diverse magari, e dopo si trovano sole, un po' abbandonate e ritornano. È un po' come ci ha detto Papa Francesco, no? Nei suoi primi giorni di pontificato, l'attenzione ai poveri, che è quella che voi cercate di, sì, di tradurre ogni giorno, no? Sì, sì. È quella soprattutto che cerco di dare, proprio quell'attenzione, quell'accoglienza fatta soprattutto di affetto, di sentirsi accolte, di non sentirsi abbandonate. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.